Una slitta con tre passeggeri urlanti sfrecciò accanto al signor Meredith, diretta verso il laghetto. I lunghi riccioli di Faith ondeggiavano nel vento e la sua risata squillava sopra quella degli altri. John Meredith guardò i bambini con affetto e nostalgia. Era felice che i suoi figli avessero trovato dei compagni di gioco come i Blythe e avessero un'amica saggia e allegra come la signora Blythe. Ma avevano bisogno di qualcosa di più e lui gliel'avrebbe dato, portando alla vecchia canonica Rosemary West come sua sposa. C'era già qualcosa di molto materno in lei. Era sabato sera, un momento in cui il pastore raramente faceva visita a qualcuno, preferendo dedicarlo alla scrupolosa revisione del sermone domenicale. Ma aveva scelto quella sera perché aveva saputo che Ellen West non era in casa e avrebbe quindi trovato Rosemary da sola. Aveva passato molte piacevoli serate nella casa sulla collina, ma da quel primo incontro alla sorgente non aveva mai visto Rosemary da sola. Con loro c'era sempre stata Ellen. Non aveva particolari obiezioni alla sua presenza. Ellen West gli stava molto simpatica ed erano diventati davvero amici. Aveva una capacità di ragionamento molto simile a quella maschile e un senso dell'umorismo che incontrava il gusto timido e nascosto del pastore in materia. Inoltre lui apprezzava molto che si interessasse di politica e di ciò che accadeva nel mondo. Nessuno a Glen, nemmeno il dottor Blythe, ne sapeva più di lei in materia. Penso semplicemente che sia meglio interessarsi a quello che accade finché si campa, diceva lei, altrimenti non so bene che differenza faccia essere vivi o morti. Al signor Meredith piaceva la sua voce profonda e tonante, così come la sua calorosa risata con la quale concludeva sempre qualche aneddoto divertente e ben raccontato. Non lo criticava mai riguardo ai suoi figli come facevano le altre donne di Glen e non lo annoiava con i pettegolezzi locali. In lei non c'era né malizia né meschinità, era sempre splendidamente sincera. Il signor Meredith, che aveva adottato il metodo di classificazione dell'umanità della signorina Cornelia, considerava Ellen una della stirpe che aveva conosciuto Giuseppe e una cognata ammirevole. Ma al momento di chiedere la mano di una donna, nessun uomo avrebbe mai auspicato la presenza di un'altra, nemmeno della più ammirevole, sulla faccia della terra, ed Ellen era sempre tra i piedi. Anche se non insisteva per monopolizzare la conversazione con il signor Meredith e permetteva anche a Rosemary di parlarci. A dire la verità, molte sere Ellen si teneva completamente in disparte, rifugiandosi in un angolino con St. George in grembo e lasciava che il signor Meredith e Rosemary parlassero, cantassero e leggessero libri insieme. A volte entrambi dimenticavano completamente la sua presenza, ma se la conversazione o la scelta dei duetti da cantare faceva trapelare anche solo un'ombra di ciò che Ellen considerava corteggiamento, lei lo stroncava sul nascere. E non lasciava più spazio a Rosemary per tutto il resto della serata. Tuttavia, nemmeno il più truce dei draghi da guardia è in grado di impedire il sottile linguaggio degli occhi, dei sorrisi e dei silenzi eloquenti. Perciò il pastore aveva potuto portare avanti il suo corteggiamento. Se mai, però, avesse deciso di andare fino in fondo, avrebbe dovuto farlo quando Ellen non c'era. E lei era raramente via, soprattutto durante l'inverno. Trovava il suo focolare il posto più piacevole della terra e la prospettiva di vagabondare non l'attirava. Le piaceva stare in compagnia, ma a casa sua. Il signor Meredith era quasi giunto alla conclusione di dover scrivere a Rosemary ciò che aveva intenzione di dirle, quando una sera, come se niente fosse, Ellen annunciò che il sabato successivo sarebbe partita per presenziare delle nozze d'argento. Era stata la damigella della sposa all'epoca e gli ospiti erano soltanto gli invitati di allora, perciò Rosemary non sarebbe andata. Il signor Meredith aveva drizzato le orecchie e un lampo aveva attraversato i suoi occhi scuri e sognanti. Sia Ellen sia Rosemary se ne erano accorte ed entrambe avevano immediatamente capito con sconcertante chiarezza che il signor Meredith sarebbe salito su in collina quel sabato sera. A questo punto è meglio che la faccia finita, St. George, aveva detto severamente Ellen al gatto nero dopo che il signor Meredith se n'era andato a casa e Rosemary era salita al piano di sopra senza dire una parola. Vuole chiederle di sposarlo, lo so benissimo, St. George. Perciò, a questo punto, beh, è meglio lasciarglielo fare, così scoprirà che non può averla. A lei piacerebbe sposarlo, sai? Lo so bene, ma ha promesso e deve mantenere la promessa. In un certo senso mi dispiace, St. George. Non mi viene in mente nessun altro che preferirei avere come cognato, se proprio dovessi averne uno. Non ho niente contro di lui, tranne il fatto che non riesce e non vuole vedere che il Kaiser è una minaccia per la pace dell'Europa. Proprio non ci sente da quell'orecchio. Ma è un'ottima compagnia e mi è simpatico. Una donna può dire qualsiasi cosa a uno come John Meredith e star sicura che non verrà fraintesa. Un uomo così è più prezioso di un rubino, St. George, molto più prezioso. Però non può avere Rosemary e immagino che quando lo scoprirà ci pianterà in asso entrambe. Ci mancherà St. George, ci mancherà moltissimo, ma lei ha promesso e io farò in modo che mantenga la promessa. Il volto di Ellen pareva quasi sfigurato da quella sua testarda risolutezza. Al piano di sopra Rosemary piangeva sul cuscino. Il signor Meredith quindi trovò la sua dama sola e bellissima. Rosemary non si era vestita per l'occasione. Avrebbe voluto, ma poi aveva pensato che era assurdo mettersi elegante per rifiutare un uomo. Perciò aveva indossato il suo abito scuro da pomeriggio, nel quale sembrava una vera regina. L'eccitazione repressa aveva donato un colorito brillante al suo volto e i suoi grandi occhi azzurri erano due pozze meno placide e tranquille del solito. Sperava in realtà che il colloquio finisse in fretta. Ci aveva pensato tutto il giorno con timore. Era sicura che John Meredith le volesse bene e che il sentimento che provava per lei fosse diverso da quello che aveva provato per il suo primo amore. Sapeva che il suo rifiuto l'avrebbe profondamente deluso, ma non credeva che ne sarebbe stato sopraffatto. Eppure, detestava l'idea di farlo, certamente per lui, ma poiché era molto onesta con se stessa anche per sé. Sapeva che avrebbe potuto amare John Meredith se solo le fosse stato permesso. Sapeva anche che la sua vita si sarebbe svuotata se lui, rifiutato come sposo, avesse deciso di non esserle più nemmeno amico. E sapeva che con lui sarebbe stata molto felice e avrebbe potuto rendere felice anche lui, ma tra lei e la sua felicità c'era la promessa che aveva fatto Helen anni prima. Rosemary non ricordava loro padre, aveva solo 3 anni quando era morto. Helen invece, che ne aveva 13, lo ricordava, ma non con particolare affetto. Era stato un uomo severo e riservato, molto più anziano della sua graziosa moglie. 5 anni dopo era morto anche il loro fratellino dodicenne e da allora le due ragazze avevano sempre vissuto da sole con la madre. Non avevano mai partecipato molto alla vita sociale di Glen o di Lowbridge, sebbene l'intelligenza e il senso dell'umorismo di Helen, così come la dolcezza e la bellezza di Rosemary, le rendessero ovunque delle gradite ospiti. Entrambe avevano sofferto per amore in gioventù. Il mare non aveva mai restituito a Rosemary il suo amato. Mentre Norman Douglas, all'epoca un giovane bel gigante dai capelli rossi, famoso per la maniera spericolata di guidare il calesse e per le sue bravate clamorose, ma per lo più innocue, aveva litigato con Ellen e l'aveva lasciata in un accesso di rabbia. Non erano mancati i candidati a prendere il posto di Martin e di Norman, ma nessuno aveva incontrato il favore delle ragazze West, che si erano lasciate alle spalle giovinezze e corteggiamenti, apparentemente senza alcun rimpianto. Erano state devote alla loro mamma invalida cronica, avevano costituito un piccolo circolo dedito ai passatempi domestici, libri, animali, fiori, che bastava renderle felici. La morte della signora West il giorno del 25° compleanno di Rosemary era stato un duro colpo per entrambe. All'inizio avevano provato un'insopportabile solitudine. Helen in particolare aveva portato il lutto molto a lungo, si era immersa in malinconici pensieri interrotti solo da accessi di pianto disperato. Il vecchio dottore di Lowbridge aveva detto a Rosemary che temeva le fosse venuta una depressione permanente se non qualcosa di peggio. Una volta, dopo che Helen se n'era stata seduta per tutta la giornata rifiutandosi sia di parlare sia di mangiare, Rosemary si era accovacciata di fianco a lei. «Oh, Helen, hai ancora me?» le aveva detto in tono implorante. Non sono nulla per te, ci siamo sempre volute così tanto bene. Non ti avrò per sempre, aveva risposto Ellen rompendo il suo silenzio con un'enfasi crudele. Ti sposerai e mi lascerai, rimarrò da sola. Non sopporto neanche l'idea, non posso, preferirei morire. Non mi sposerò mai, disse Rosemary, mai Ellen. Ellen si era chinata in avanti e aveva scrutato gli occhi di Rosemary. Me lo prometti solennemente? Disse. Promettimelo sulla Bibbia della mamma. Rosemary aveva subito acconsentito, desiderosa di accontentare Ellen. In fondo che le importava? Era sicura che non avrebbe mai voluto sposare nessuno. Il suo amore era sprofondato negli abissi del mare insieme a Martin Crawford e senza amore non poteva essere la moglie di nessuno. Perciò fu pronta a promettere ed Ellen trasformò il tutto in una sorta di spaventoso rito. Si strinsero la mano sopra la Bibbia nella stanza vuota della loro madre e si promisero l'un l'altra di non sposarsi mai e di vivere sempre insieme. Da quel momento le condizioni di Ellen migliorarono. Nel giro di poco recuperò il suo umore allegro. Per 3 anni lei e Rosemary avevano vissuto felici nella vecchia casetta, senza che il pensiero di sposarsi o di dare l'altra in sposa le turbasse minimamente. Quella promessa non era un peso. Ellen non mancava mai di ricordarla a sua sorella, tutte le volte che incontravano qualche esponente idoneo del sesso maschile, ma non si era mai veramente allarmata, finché John Meredith non era tornato a casa quella sera con Rosemary. Dal punto di vista di quest'ultima, l'ossessione di Ellen riguardo la promessa era sempre stata motivo di ilarità fino a poco tempo prima. Adesso era una costrizione impietosa che lei stessa si era imposta e di cui non poteva liberarsi. E per questo motivo quella sera avrebbe voltato le spalle alla felicità. Il timido e dolce amore ancora in boccio che aveva donato al suo fidanzato di gioventù non poteva essere offerto a nessun altro, ma lei sapeva di poter dare a John Meredith un amore più pieno e maturo. Lui riusciva a toccare i punti più profondi della sua natura, dove Marty non era mai arrivato e che forse all'età di 17 anni nemmeno esistevano dentro di lei. Eppure quella sera lei doveva respingerlo, rimandarlo alla sua casa solitaria, alla sua vita vuota e ai suoi strazianti problemi. Tutto perché 10 anni prima, sulla Bibbia della loro madre, aveva promesso a Ellen che non si sarebbe mai sposata. John Meredith non colse subito l'opportunità che aveva di fronte, ma parlò per circa 2 ore degli argomenti meno romantici della terra. Tentò persino di addentrarsi nella politica, pur sapendo che Rosemary lo trovava un tema noioso. Quest'ultima cominciò a pensare di essersi completamente sbagliata e tutte le sue paure e le sue aspettative le parvero a un tratto grottesche. Si sentì sciocca e ingenua. La luce sul suo volto si spense, così come il luccichio dei suoi occhi. John Meredith non aveva alcuna intenzione di chiederle di sposarlo. E poi, all'improvviso, lui si alzò, attraversò tutta la stanza e glielo chiese, in piedi davanti alla sua poltrona. Sulla stanza calò un terribile silenzio. Persino St. George smise di miagolare. Rosemary sentiva il battito del proprio cuore ed era sicura che anche John Meredith lo sentisse. Era il momento di dire di no con gentilezza e fermezza. Da giorni si era preparata una formuletta di rifiuto contrita e cortese, ma in quell'istante se la dimenticò completamente. Doveva dire di no, ma all'improvviso si rese conto di non potere. Era una parola impossibile. Adesso sapeva che non solo avrebbe potuto amare John Meredith, lo amava già, e il pensiero di buttarlo fuori dalla sua vita era un vero tormento, però doveva dire qualcosa. Alzò il capo coperto di riccioli dorati e balbettando gli chiese di darle qualche giorno per pensarci. John Meredith fu un po' sorpreso. Non era vanitoso, non più di qualsiasi altro uomo, ma si aspettava che Rosemary West dicesse di sì. Era ragionevolmente sicuro che lei tenesse a lui, e allora perché quel dubbio, quell'esitazione? Lei non era certo una giovane scolaretta, ancora incerta dei propri sentimenti. In ogni caso, nonostante la spiacevole fitta di delusione e disappunto, acconsentì alla richiesta con la sua consueta cortesia e andò subito via. Tra pochi giorni avrà una risposta, disse Rosemary con gli occhi bassi e il viso in fiamme. Quando la porta si chiuse alle sue spalle, tornò in camera sua e prese a torcersi le mani. St. George la sa lunga. A mezzanotte Ellen West stava tornando a casa dalle nozze d'argento dei Pollock. Era rimasta un po' più a lungo dopo che gli altri ospiti se n'erano andati per aiutare la sposa dai capelli grigi a lavare i piatti. Le loro due case non erano distanti e la strada era in buone condizioni, perciò Ellen si stava godendo quella passeggiata al chiaro di luna. Era stata una bella serata, o almeno Ellen, che da anni non andava a una festa, l'aveva trovata molto piacevole. Gli invitati facevano tutti parte del suo vecchio gruppo e non c'erano giovani a disturbare l'atmosfera, visto che l'unico figlio della coppia era via. all'università e non era potuto tornare. C'era anche Norman Douglas e dopo anni i due si erano incontrati in un'occasione mondana. Prima lei l'aveva rivisto giusto un paio di volte in chiesa quell'inverno. L'incontro non risvegliò alcun sentimento nel cuore di Helen. Quando le tornava in mente quella faccenda, si era ormai abituata a chiedersi come avesse mai potuto piacerle uno come lui. E perché mai avesse sofferto tanto del suo improvviso matrimonio? Rivederlo però le aveva fatto piacere, aveva dimenticato quanto potesse essere vivace e interessante. Le feste non languivano mai quando tra gli invitati c'era Norman Douglas. Erano rimasti tutti sorpresi che fosse venuto. Era famoso per non andare mai da nessuna parte. I Pollock l'avevano invitato perché era stato presente al matrimonio, ma non credevano che sarebbe andato davvero. Aveva portato con sé Amy Annetta Douglas, sua cugina di secondo grado, ed era stato molto premuroso con lei. Ellen, però, seduta proprio di fronte, aveva ingaggiato con lui una vivace discussione, nel corso della quale tutto il suo sbraitare e ribattere non aveva avuto effetto su di lei, che ne era uscita vincitrice. Aveva steso Norman in maniera così composta e totale da farlo rimanere in silenzio per 10 minuti, passati i quali lui aveva mormorato sotto i baffi rossi, più sfacciata che mai, davvero più sfacciata che mai. Poi aveva incominciato a infastidire Annetta, che aveva ridacchiato alle sue battute, mentre Elena al posto suo gliene avrebbe cantate quattro. Ripensava a tutto questo mentre tornava a casa, gustandone il ricordo. Intorno a lei il paesaggio gelido scintillava al chiaro di luna e la neve scricchiolava sotto i suoi piedi. Sotto di lei si stendeva tutta Glen, con il porto imbiancato sullo sfondo. La luce dello studio nella canonica era accesa. John Meredith quindi era a casa. Aveva chiesto a Rosemary di sposarlo? E lei come gli aveva comunicato il suo rifiuto? Ellen pensava che non l'avrebbe mai saputo, per quanto fosse curiosa. Era certa che Rosemary non le avrebbe mai detto niente e lei non avrebbe osato chiedere. Doveva accontentarsi che l'avesse rifiutato. In fondo era quella l'unica cosa che contava. Spero che sia così ragionevole da tornare a trovarci ogni tanto e che si comporti in maniera amichevole, disse tra sé e sé. Detestava così tanto stare da sola che pensare ad alta voce era diventato uno dei suoi trucchi per eludere l'indesiderata solitudine. È proprio orribile questa scarsità di uomini con un po' di cervello con cui poter chiacchierare. Probabilmente lui non verrà più a trovarci. Ci sarebbe Norman Douglas, certo. Mi piace quell'uomo. Sarebbe bello fare una sana discussione con lui ogni tanto. Ma non oserà mai venire a casa, per timore che la gente cominci a dire che mi sta corteggiando di nuovo e probabilmente per timore che lo pensi anch'io, anche se ormai conosco quasi meglio John Meredith di lui. Essere stata la sua fidanzata mi sembra quasi un sogno. Però la situazione è questa. In tutta Glen ci sono solo due uomini con i quali mi farebbe piacere chiacchierare. Ma per via dei pettegolezzi e di questa maledetta faccenda dei corteggiamenti andrà a finire che non vedrò mai più nessuno di loro, disse Helen, lanciando un'occhiata di sfida alle stelle immobili nel cielo. A volte penso che se fosse dipeso da me, avrei fatto un mondo molto migliore di questo. Giunta al cancello, si fermò, colta da un vago senso di allarme. La luce del salotto era ancora accesa e dalle persiane si intravedeva la sagoma di una donna che camminava irrequieta avanti e indietro. Che stava facendo Rosemary ancora in piedi a quell'ora della notte? E perché passeggiava a quel modo come una matta? Ellen entrò senza far rumore, ma non appena aprì la porta, Rosemary uscì dalla stanza. Era tutta rossa e senza fiato. Intorno a lei aleggiava un'atmosfera carica di tensione e passione. Perché non sei ancora a letto, Rosemary? Le chiese Ellen. Vieni, rispose lei in tono enfatico, devo dirti una cosa. Ellen rimase composta, si tolse il cappotto e le soprascarpe e seguì sua sorella nel salotto caldo illuminato dal fuoco. Qui rimase in piedi con le mani sul tavolo in attesa. Anche lei era molto bella in quel suo modo un po' spaventoso e cupo. L'abito nuovo di velluto nero con lo strascico e lo scollo a V che aveva cucito appositamente per quella serata donava molto alla sua figura alta e maestosa. Al collo portava una collana di perle d'ambra ricca e pesante, cimelio di famiglia. La camminata all'aria gelida aveva donato alle sue guance un colorito scarlatto, ma i suoi occhi azzurro acciaio erano glaciali e immoti come il cielo di una notte d'inverno. Rosemary dovette fare uno sforzo disperato per rompere quel silenzio. Ellen, e il signor Meredith è venuto qui stasera? Sì? E mi ha chiesto di sposarlo. Lo immaginavo, ma l'hai rifiutato, giusto? No. Rosemary! Ellen strinse le mani a pugno e senza rendersene conto fece un passo in avanti. Mi stai dicendo che hai accettato? No, no! Ellen si ricompose. E allora cosa hai fatto? Gli ho chiesto qualche giorno per pensarci. Non capisco a cosa ti servano, disse Ellen, fredda e sprezzante, visto che c'è una sola risposta possibile. Rosemary tese le mani imploranti verso di lei. Ellen, disse disperata, io amo John Meredith e voglio essere sua moglie. Potresti liberarmi dalla promessa? No, rispose Ellen impietosa, ma in realtà in preda alla paura. Ellen, ascoltami, la interruppe lei. Non ti ho chiesto io di prometterti, sei offerta tu. Lo so, ma allora non pensavo che avrei mai potuto amare qualcun altro di nuovo. Ti sei offerta tu. Proseguì Ellen irremovibile. Sulla Bibbia della mamma. Era qualcosa di più di una promessa, era un voto, e adesso tu vuoi infrangerlo. Io ti ho solo chiesto di liberarmi da quella promessa, Ellen. Non lo farò. Ai miei occhi una promessa è una promessa. Quindi no. Se vuoi, vieni pure meno alla tua parola. Diventa una spergiura, come vuoi, ma non avrai il mio consenso. Sei dura con me, Ellen. Dura? Con te, io? Hai mai pensato a quanto io mi sentirei sola qui se tu mi lasciassi? Non lo sopporterei, impazzirei sicuramente. Non posso vivere da sola. Non sono stata una brava sorella per te? Mi sono mai opposta a qualche tuo desiderio? Non ti ho concesso tutto? Sì. E allora, perché vuoi lasciarmi per quest'uomo che un anno fa nemmeno conoscevi? Perché sono innamorata di lui, Ellen. Ah! Innamorata. Parli come una ragazzina e non come la donna matura che sei. Lui non ti ama, vuole solo una governante e una brava casalinga e neanche tu lo ami. Vuoi solo essere una signora. Sei una di quelle donne così deboli da pensare che essere definita una vecchia zitella sia una disgrazia, è tutto qua. Rosemary fu colta da un tremito. Ellen non poteva capire, non voleva. Ragionare con lei non serviva a niente. Quindi non mi lascerai libera, Ellen? No, e non voglio più sentirne parlare. Hai promesso e devi mantenere la promessa. Tutto qua. Vai a letto adesso. Guarda che ore sono. Ora sei in preda all'eccitazione romantica. Domani sarai più ragionevole. Ma comunque sia, io non voglio più sentir parlare di queste sciocchezze. Ora vai. Rosemary se ne andò senza dire una parola, pallida e mogia. Ellen si aggirò inquieta per la casa per qualche minuto. Poi si fermò davanti alla poltrona dove St. George aveva riposato tranquillamente per tutta la sera. Sul volto le comparve un sorriso riluttante. C'era stato solo un momento in tutta la sua vita, quando era morta sua madre, in cui Ellen non era stata capace di attenuare i drammi con un pizzico di umorismo. Persino in quell'amara occasione di tanto tempo prima, quando Norman Douglas l'aveva lasciata su due piedi, era riuscita a ridere di se stessa tra un pianto e l'altro. Oh, beh, immagino che mi terrà un po' al broncio, St. George. Oh, sì, ci sarà qualche giornata spiacevole e cupa, ma la supereremo. Non è la prima volta che ho a che fare con dei capricci da bambino. Rosemary terrà il broncio per un po' e poi le passerà e tutto sarà come prima, George. Ha promesso e deve mantenere la promessa. E questa è la mia ultima parola sulla questione. Non ne parlerò più, né con te, né con lei, né con chiunque altro. Quella notte, tuttavia, Ellen non chiuse occhio e non ci fu alcun broncio. Il giorno seguente Rosemary era pallida e silenziosa, ma Ellen non trovò altre differenze nel suo comportamento. Di certo non pareva portarle rancore. Pioveva, perciò nessuna sollevò l'idea di andare in chiesa. Nel pomeriggio Rosemary si chiuse nella sua stanza e scrisse un biglietto a John Meredith. Non ce la faceva a dirgli di no di persona, era certa che se lui avesse sospettato che lo faceva contro la sua volontà, non avrebbe accettato il suo rifiuto. E se si fosse messo a pregarla o a implorarla, Lei non l'avrebbe sopportato. Doveva fargli credere che non le importasse nulla di lui e poteva farlo solo per lettera. Scrisse quindi la lettera di rifiuto più dura e fredda possibile. Era a malapena cortese e non lasciava speranze nemmeno al più audace dei corteggiatori, cosa che John Meredith di certo non era. Il giorno seguente, quando lui la lesse nel suo studio polveroso, si sentì schiacciato, ferito e mortificato. Ma al di là della mortificazione, percepì anche una terribile verità. Aveva creduto che il suo amore per Rosemary non fosse profondo quanto quello che aveva nutrito per Cecilia, ma ora che l'aveva persa, si rese conto che non era così. Lei era tutto per lui, tutto. E adesso doveva uscire dalla sua esistenza. Esserle amico era impossibile. La vita ora gli appariva come una distesa di intollerabile monotonia. Doveva andare avanti, aveva il suo lavoro, i suoi figli, ma era come se il cuore gli fosse saltato fuori dal petto. Per tutta la sera rimase seduto da solo nello studio, freddo, buio e scomodo, con il capo tra le mani. In cima alla collina, Rosemary disse che aveva mal di testa e andò a letto presto, lasciando Helen a chiacchierare con St. George, il quale da parte sua espresse con lefusa il suo disprezzo per gli sciocchi umani, ignari del fatto che l'unica cosa che contava a questo mondo era un cuscino soffice. Che farebbero le donne se non avessero inventato i mal di testa, St. George? Ah, lascia perdere. Per qualche settimana chiuderemo un occhio. Però devo dire che non mi sento del tutto a posto con me stessa, George. Anzi, mi sento come se avessi annegato un cucciolo. Ma è stata lei a promettere. Si è offerta a lei, George. Bismillah.